Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio, a tutti buona giornata. Oggi ritorniamo a parlare di investitori e risparmiatori. Nei primi 11 mesi di quest'anno le emissioni societarie di obbligazioni ad alto rischio ed alto rendimento hanno sfondato ogni record. Nel mondo circolano qualcosa come 350 miliardi di dollari, 63 in Europa, di appunto emissioni obbligazionarie. Un quadro che vede però l'Italia in controtendenza, complice la recessione che brucia la ricchezza a disposizione degli investitori e li orienta a preferire i prodotti considerati più sicuri. È inutile tornare a ribadire quanto abbiano scelto, come sapete, negli ultimi mesi, per esempio, i conti di deposito le famiglie italiane. Questo però non significa che i risparmiatori italiani siano insensibili al fascino di quegli strumenti che, a fronte di rischi elevati, offrono in cambio cedole allettanti. Allora, Salva Danaio oggi raccoglie, alla luce dell'andamento dei mercati, i consigli per chi è interessato a cominciare ad incrementare la dose di rischio nel proprio portafoglio di investimento. Come si fa ad individuare la porzione di rischio giusta rispetto alle proprie esigenze? Questa, tra l'altro, è la storia di copertina anche di domani, di Plus 24 del Sole 24 Ore, coordinata da Nicola Borzi, che saluto. Bentornato Nicola, buongiorno. Buongiorno Deborah, la salutiamo subito, Anna? Ma sì, salutiamola subito. Papà è qua che ti saluta, Anna, ciao. Perfetto, Anna con l'influenza, come praticamente tutti i bambini, tutte le colleghe della redazione, dei colleghi della redazione, quindi salutiamo tutti i bambini a casa che magari sono molto interessati al nostro argomento, quindi cercheremo di renderlo semplice anche per loro. Allora, con noi anche questa mattina Paolo Federici, Country Head per l'Italia di Fidelity Worldwide Investment, è uno dei più grandi gestori di fondi di investimento a livello mondiale. Federici, buongiorno e bentornato a Salva Danaio. Buongiorno, grazie, buongiorno agli ascoltatori. E chiaramente proprio gli ascoltatori questa mattina li vogliamo coinvolgere al massimo nella nostra trasmissione per capire se, dopo che hanno risparmiato poco o tanto negli ultimi tempi, difficile dirlo ma sempre meno per la verità, l'orientamento è stato anche quello di intaccare il patrimonio risparmiato negli anni passati per far fronte alle esigenze nuove di difficoltà delle famiglie, ma se siete riusciti a risparmiare qualcosa, magari avete mantenuto prevalentemente liquido questo risparmio collocandolo appunto su strumenti facilmente liquidabili, magari titoli di Stato oppure nei conti di deposito, avete cominciato a pensare di incrementare la vostra rischiosità? Siete amanti del rischio quando investite appunto, e come gestite questa propensione? 800 24 00 24, raccontatecelo al numero verde se volete intervenire in diretta, oppure scriveteci al 349 238 6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Sul profilo Facebook siamo su salvadanaio-radio24, su Twitter siamo su @salvadanaio24. La borsa stamattina è proprio indecisa. Gli indici sono partiti così, con questa voglia di volatilità, adesso sono in ribasso quasi tutti, con l'unica eccezione di Londra che mantiene un più 0,08%, Parigi meno 0,12%, Francoforte meno 0,08%, Milano meno 0,43%. Si guarda le discussioni a Bruxelles sull'approvazione del budget europeo, ancora l'ennesima prova di indecisione politica, penalizza probabilmente anche i mercati, e manca anche lo stimolo di Wall Street. Da qualche giorno, ieri il mercato americano chiuso per il Thanksgiving Day, il giorno del ringraziamento, oggi le contrattazioni riprendono ma si lavorerà solo mezza giornata, quindi ranghi ridotti, e quindi probabilmente anche da là molti stimoli non arriveranno. Più interessante sarà guardare quanto spenderanno oggi gli americani in questo Black Friday, la grande giornata in cui iniziano gli sconti statunitensi, quindi grande afflusso nei negozi appunto americani, e siccome, come sapete, i consumi americani sono fondamentali per capire anche come sta andando l'economia a stelle e strisce, quello di oggi è sicuramente un test particolarmente rilevante. Vediamo un po' Milano, i migliori titoli: Buzzi Unicem più 1,70, Saipem più 1,21, Finmeccanica più 0,9, Pirelli più 0,6%, Monte dei Paschi il peggiore, perde quasi 2 punti, il Banco Popolare meno 1,65, Mediobanca meno 1,51, Ansaldo meno 1,49, 9, Ubibanca meno 1,49%. La borsa di oggi la lasciamo subito, noi oggi continuiamo però a parlare di mercati ma da un punto di vista particolare, parleremo di obbligazioni societarie ma soprattutto cercheremo di capire se dopo tanta prudenza, quella che hanno privilegiato i risparmiatori italiani negli ultimi anni, adesso c'è qualcuno che tenta in qualche maniera di capire se sul mercato ci sono delle occasioni di investimento un po' più rischiose rispetto a quelle del passato. Sentiamo la nostra scheda. Gli italiani sono da sempre visti come un popolo di formichine, attento a mettere da parte riserve in vista dei periodi più duri e di conseguenza poco propenso al rischio. A maggior ragione in una fase di crisi, che vede diminuire il denaro in circolazione, andando a modificare lo spaccato delle scelte di investimento dei risparmiatori. Secondo i più recenti dati di Banca Italia, la stragrande maggioranza delle famiglie, il 64,8%, possiede solo un deposito bancario o postale. Una recente ricerca Acri-Ipsos evidenzia per il 2012 rispetto allo scorso anno un maggiore successo degli strumenti di liquidità o comunque più facilmente smobilizzabili nel momento del bisogno. Aumentano dal 6 all'8% i possessori di azioni, così come chi investe in bond e certificati di deposito. Si passa dall'8 al 10%. I titoli di Stato, al 5% nel 2011, sono ora detenuti dal 9% delle famiglie. Il 19% dichiara di aver sottoscritto assicurazioni sulla vita o fondi pensione, mentre si attesta all'11% il dato di chi possiede fondi comuni di investimento. Aumenta la richiesta di libretti di risparmio, cui si affidano il 19% degli italiani, e colpisce il calo di preferenze nei confronti del mattone, scese ai minimi dal 2001. Nel 2006 il 70% degli italiani considerava la casa l'investimento migliore, ma nel 2010 la quota era già scesa al 54%, per poi passare al 45% nel 2011 e al 35% di quest'anno. I risparmiatori italiani sono sempre più sensibili al tema del rischio e fanno sempre più fatica a individuare un investimento che considerano sicuro. Quasi l'80% non si sente realmente in grado di fare questa scelta. Cresce, arrivando al 28%, il numero di coloro che ritengono sbagliato, in questo momento, investire in qualsiasi tipo di prodotto. In questo quadro, gli amanti del rischio sono una nicchia, il 5%, che non accenna però a diminuire. 800 24 00 24 è il numero verde per le vostre domande, per i vostri interventi in diretta. Nicola Borsi ha salutato la sua bambina e volevo salutare invece, perché mi stanno scrivendo, un gruppo di promotori finanziari che ho incontrato ieri ad un convegno a Bologna. Più che salutarmi, perché non intervenite in trasmissione stamattina? Mi volete raccontare se i vostri clienti vi stanno chiedendo di incrementare le proprie posizioni di rischio nel proprio portafoglio, quindi vi stanno appunto chiedendo di suggerire loro prodotti di investimento un po' più aggressivi, a rendimenti magari più alti, ma che contengono evidentemente una dose di rischio più alta, oppure sono ancora molto conservativi e molto prudenti? Raccontatecelo al numero verde o al 349-238-6666. Intanto stamattina Nicola Borsi, casualmente, è stato presentato uno studio nell'ambito del convegno Conoscere l'investitore, la rilevazione della tolleranza al rischio finanziario, organizzato, adesso non ricordo bene da chi, ma questo è uno studio appunto che è stato formulato e diffuso, un'analisi della Consob che tocca proprio, c'entra pienamente il nostro argomento di oggi. Che cosa indica questo studio? Che cosa scopre? Buongiorno Deborah. Lo studio indica in realtà che la Consob ha esaminato tutta una serie di intermediari, specialmente bancari, che hanno effettuato la profilatura del cliente per analizzare la propensione al rischio e ha individuato nella autoprofilatura un problema molto serio, perché secondo gli autori dello studio e anche la Consob pone addirittura dei rischi sistemici per il sistema degli intermediari italiani. Evidentemente l'autoprofilatura del rischio del cliente, che ricordiamolo è obbligatoria in base alla direttiva MiFID per tutti coloro che si accostano a forme di investimento, non è il metodo migliore per valutare se questi risparmiatori hanno una consapevolezza degli strumenti finanziari ai quali si accostano e se questi strumenti sono o no corrispondenti alle loro esigenze. Ed è il tema che sviluppiamo anche sulla copertina di Plus in edicola domani, a partire non soltanto dall'eventuale aumento dell'attenzione o dell'interesse per strumenti finanziari più rischiosi come i bond corporate ad alto rischio e ad alto rendimento, ma anche da storie di risparmiatori che avevano acquistato delle obbligazioni che in quel momento erano investment grade, quindi a basso rischio, e che a causa di downgrade, quindi riduzione del rating da parte delle agenzie effettuati durante quest'estate, si sono trovati improvvisamente ad avere in portafoglio dei titoli che non sono più a livello, diciamo, investment, ma sono diventati a livello speculativi. Come a livello speculativo, come racconta una lettera che è arrivata a Plus e che è pubblicata nella sezione della Posta del Risparmiatore, di un investitore che aveva acquistato titoli bancari di Dexia Credit Hop e ha scoperto dopo il downgrade di Moody's di quest'estate che i propri titoli non sono più investment ma sono speculativi. E con quali conseguenze? Lui, per esempio, se volesse liberarsi, se volesse vendere questo titolo, fa più difficoltà, per esempio, tanto no, per tradurre. Non dovrebbe avere maggiori difficoltà. Il problema è che un downgrade di un titolo che ha in portafoglio va a impattare proprio sulla profilatura del rischio. E secondo gli esperti che sono stati intervistati dai colleghi che insieme a me hanno sviluppato questa intervista, questa copertina, che sono Antonio Criscione e Andrea Gennai, la quantità di titoli speculativi obbligazionari corporate in portafoglio non deve essere superiore al 2,5% del volume totale degli investimenti, ma soprattutto non è adatta a tutti i risparmiatori, è adatta soltanto a coloro che hanno una propensione a rischio media o alta. Quindi c'è una buona parte dei risparmiatori che teoricamente, in funzione delle proprie esigenze e delle proprie caratteristiche, non dovrebbero accostarsi a questi titoli, ma siccome gli italiani hanno in portafoglio, secondo gli ultimi dati ABI, qualcosa come 570 miliardi di euro di obbligazioni bancarie, e siccome dopo i downgrade di quest'estate alcune banche sono scese sotto il livello investment e sono ora speculative, ma buona parte delle altre sono appena al di sopra del livello che sancisce il rating speculativo, molti dovranno fare attenzione in futuro al rapporto delle agenzie di rating sulle loro banche. Questa è un'analisi molto interessante, perché molto spesso non riusciamo a cogliere pienamente la rilevanza di una modifica di un rating, quello sul debito sovrano di un paese piuttosto che quello su un'emissione obbligazionaria di una società, come faremo questa mattina. In realtà l'impatto è enorme, perché in questo caso, nel caso del risparmiatore, abbiamo visto come cambia improvvisamente il suo profilo MiFID, e questo è rilevante anche relativamente magari a future occasioni o appunto sottoscrizione di prodotti di investimento. Cambia anche il rating, Paolo Federici, vengo a lei, nel mondo dei fondi di investimento, perché chiaramente una revisione del giudizio da parte delle agenzie di rating su una serie di prodotti può determinare anche una rapida riorganizzazione anche del portafoglio investito di un fondo, per cui ecco che qui siamo anche in grado stamattina di spiegare effettivamente qual è l'impatto di una modifica appunto di un rating, e qualche volta forse un piccolo risparmiatore di tutto questo movimento che queste decisioni implicano non riesce a vederlo. Assolutamente vero, anche perché spesso il risparmiatore fa altro nella vita, quindi in questo senso ci sono per esempio dei gestori che hanno costruito fondi che si focalizzano su un certo tipo di qualità. Quindi ad esempio se un prodotto, una emissione in questo caso diventa non più investment grade, quindi ad alta qualità, ma diventa yield, ci potrebbe essere la necessità di doverla vendere, e chiaramente il gestore in questo caso lo può fare accedendo a un certo tipo di liquidità, e non solo, se ne accorge anche istantaneamente, perché evidentemente questo è un pochino il suo mestiere. Questo non vuol dire che se un titolo, soprattutto quelli bancari, passa dall'investment grade alla yield, sia sull'orlo del fallimento. Su questo bisogna essere anche molto chiari, perché a yield in Italia viene definito e tradotto con alto rischio, è una traduzione non esattamente letterale, perché in realtà vuol dire soltanto alto rendimento. Ci sono momenti in cui alcune aziende possono non riuscire più a finanziarsi ai tassi particolarmente favorevoli che spuntavano prima per tutta una serie di ragioni, e magari in quel momento, oppure essendo aziende comunque significative, internazionali, magari comunque anche molto solide, possono offrire invece delle opportunità interessanti. Quindi associare un trasferimento di categoria al fatto che un'azienda sia sull'orlo del fallimento potrebbe essere in qualche caso un po' semplice. L'high yield di una società, Paolo Federici, corrisponde anche all'high yield di una emissione di uno Stato sovrano? Il ragionamento che ha fatto adesso può essere trasferito anche sulle obbligazioni governative? I criteri sono sostanzialmente analoghi, nel senso che si valuta la liquidità e la capacità di un'azienda di fare fronte ai propri impegni di debito. In questo senso vale anche ovviamente per uno Stato. C'è una differenza, che quando un'azienda non riesce a finanziarsi non ha molte alternative. Uno Stato in teoria ha sempre, come gli italiani poi sanno anche bene, la possibilità di richiedere maggiori risorse per onorare il proprio debito ai propri concittadini, quindi in questo senso in teoria uno Stato è più solvibile a parità di condizioni quanto non lo sia un'azienda. Lei lo sa perché le ho fatto questa domanda. Perché, posso immaginare. Perché le volevo chiedere dell'Argentina. A quanto pare siamo sull'orlo di un altro default tecnico. È un tema talmente delicato che tra il 2004 e il 2005 abbiamo toccato talmente tante volte che necessariamente per coerenza devo ritornarci. Lo faremo la prossima settimana. Cosa è successo a questo paese? Che ieri un giudice del Tribunale Federale di New York, il giudice Griesa, ma è conosciutissimo nella comunità argentina, ha ordinato al paese di risarcire 1.300 milioni di euro ai fondi avvoltoi, ai fondi speculativi che non avevano aderito alla ristrutturazione del debito dopo il famoso default del 2001. Quasi tutti i risparmiatori italiani che avevano i Tango Bond hanno aderito a questo piano di conversione, molti sono rimasti fuori e chissà che non possano beneficiare di questa decisione del giudice Griesa. Il tema è che l'Argentina non so quanto riuscirà a pagare questo, ad onorare appunto questo impegno finanziario, per cui tecnicamente Paolo Federici potrebbe essere sull'orlo di un altro crack. Beh, a 10 anni di distanza dall'ultimo. L'Argentina ci è abituata, lo sappiamo, però questa forse non ce l'aspettavamo. No, diciamo che e forse anche la stessa Argentina sperava di non doversene occupare più di tanto. Allora, quello che è successo lì è che il 92% dei sottoscrittori del debito argentino hanno aderito alla formula riscadenziata e purtroppo molto penalizzante per tutti. Esatto, del debito. E qui c'è poco da fare, c'è questo 8% che non ha aderito, alcuni dei quali hanno fatto questa causa internazionale. Siccome non sono piccoli risparmiatori ma fondi di investimento di grande portata, hanno avuto una capacità. Esatto, esattamente, quello che spesso non succede per il risparmiatore privato, evidentemente. Quello che è successo è che la sentenza prevede sostanzialmente di sospendere tutti i pagamenti, anche quelli a chi aveva aderito, fino a che, come dire, non viene garantito un uguale trattamento anche al restante 8%. E se volete, la difficoltà non è tanto pagare l'8% che tutto sommato non era fino ad oggi pagato, perché poi in realtà qui dovranno pagare anche quello che non hanno già pagato, quindi c'è un tema effettivamente di possibile buco economico, ma c'è anche il fatto che tutta la comunità di quelli che avevano già aderito in questo momento è a rischio, perché fino a che non si sblocca questa situazione, per non ledere gli interessi dei primi, anche il 92% non verrebbe quindi pagato. Quindi non solo si sono accontentati delle briciole in quella ristrutturazione di quel debito appunto nel 2004, ma adesso rischiano anche di non veder onorata appunto questa promessa. Fino a che non si chiarisce decurtata, la situazione, ecco. Quindi in questo senso vorrei dare un messaggio tranquillizzante, certo. Nel senso che è evidente che l'Argentina ha fatto già ricorso, comunque ha dichiarato di volerlo fare, piuttosto che ci sono altri passaggi. C'è un tema di tutela dei risparmiatori, come si diceva correttamente, se io sono un privato che non ha la forza di un fondo hedge di andare a fare ricorso, tutto sommato non vedo perché io non devo essere tutelato. almeno pagato quel minimo che c'era, anche se poi non sono d'accordo ad aver in qualche modo acconsentito. Non è il tema di oggi l'Argentina, mi raccomando, lo volevo dire ai nostri ascoltatori, però insomma mi ha dato un assist per commentare anche questa notizia il nostro Paolo Federici, per cui ci è sembrato giusto anche raccontare quello che sta succedendo, anche perché invece ci sono ancora molti risparmiatori italiani che, pur avendo aderito alla ristrutturazione di qualche anno fa, hanno questa spina nel fianco che non si toglieranno mai più, per cui anche per loro così è un modo per rassicurarli sul fatto che la nostra attenzione è mantenuta viva su questo argomento. 800 24 00 24, ci fermiamo, abbiamo la nostra prima pausa, poi andremo anche ai nostri ascoltatori a cui stiamo chiedendo se stanno cominciando ad incrementare la propria dose di rischio nel portafogli investito. Tra poco. Salva Danaio. Eccoci ritrovati a Salva Danaio. Allora, gli italiani e la loro propensione all'investimento, molto prudenti negli ultimi anni di crisi fortissima nel nostro paese, una crisi che ha portato a perdere molti posti di lavoro, e soprattutto per gli italiani c'è stato anche questo bisogno di intaccare il risparmio accantonato precedentemente. Tra l'altro una circostanza inedita per gli italiani, popolazione frugale, popolazione appunto di formichine, ancora manteniamo questo primato a livello internazionale, siamo tra i più grandi risparmiatori del mondo, però questo risparmio lo stiamo cominciando ad erodere. Detto questo, c'è però anche chi il proprio salvadanaio lo sta aprendo, mantenuto liquido fino a poco tempo fa, adesso sta cominciando ad affacciarsi sul mercato cercando occasioni di investimento un po' più aggressive, solo perché magari possono garantire chiaramente rendimenti più interessanti. Questa è la storia di copertina di Plus 24 di domani, coordinata da Nicola Borzi, e noi stiamo commentando insieme a lui e insieme a Paolo Federici, numero uno in Italia di Fidelity, questa tendenza appunto da parte delle famiglie italiane. 800 24 00 24 è il numero verde per i vostri interventi. Prima di far reintervenire Nicola Borzi, volevo sentire subito un paio di testimonianze. Roberto da Ferrara, buona giornata. Sì, buongiorno. Roberto. Sì, buongiorno. Ci dica tutto. Ecco, volevo dire che io sono uno dei piccoli risparmiatori che ci sono in Italia. Io abito in provincia di Ferrara e qualche anno fa mi potevo permettere di fare qualche piccolo investimento un pochino più speculativo per cercare di guadagnare un pochino di più, però è già da un anno e mezzo, due anni che lascio i miei risparmi nel conto deposito della mia banca, la quale mi ha aumentato un pelino, diciamo così, il tasso di interesse attivo sul conto corrente, in attesa di tempi migliori. Di tempi migliori. Senta Roberto, qualcosa, le posso chiedere qual è l'investimento più aggressivo che lei ha fatto? Beh, diciamo così, BTP abbastanza con tassi di interesse più appetibili, insomma. Cioè, diciamo quindi così, quando li stava comprando, quando un anno fa c'era lo spread a 5,70, quindi sì, i prezzi, esatto, erano scesi, sì, beh, non sì. È allora tanto indietro nel tempo la sua, esatto. La sua, come dire, vocazione un po' trasgressiva nell'investimento. In realtà lo hanno fatto in molti, con discrete anche soddisfazioni. Roberto, grazie comunque per la sua testimonianza. Allora, Nicola, che ne pensi di quello che ci ha raccontato l'ascoltatore? Tra l'altro dobbiamo anche precisare un po' i contorni dei ragionamenti fatti all'inizio. Non è che se una banca cambia il suo rating significa che diventa immediatamente una banca dalle fondamenta precarie, è un contesto di mercato che porta anche a ridurre il giudizio, appunto, degli istituti di credito per tanti motivi. Assolutamente no, nel senso che i titoli bancari italiani sono penalizzati in maniera particolare dall'avere in portafoglio quantità enormi di titoli di Stato italiani. Se questi vengono downgradati è chiaro che le banche non possono che seguire questa rotta. Ed è ovvio che non cambia in realtà la situazione dell'azienda, dell'istituto di credito, ma cambia la valutazione del merito, che è un altro discorso. La valutazione del risparmiatore di prima è sicuramente una valutazione interessante, nel senso che abbiamo a che fare con un risparmiatore evoluto che si è permesso in passato di fare qualche puntata, diciamo, un po' più attenta ai rendimenti di determinati strumenti senza eccedere però nelle prese di rischio, nel senso che comunque è rimasto su titoli di Stato. Proprio per questo noi all'interno della copertina di Plus24, grazie ai lavori fatti anche da Antonio Criscione e da Andrea Gennai, abbiamo analizzato un confronto dei rendimenti non soltanto di corporate bond a yield con titoli sovrani a yield, ma anche all'interno della categoria dei corporate bond, andando a prendere recenti emissioni bancarie italiane di istituti che sono finiti sotto la soglia speculativa e utilizzando i prospetti, che sono strumenti molto importanti, perché nei prospetti per legge da qualche tempo è necessaria la comparazione con i rendimenti di titoli di Stato italiani di uguale durata. Da qualche tempo, da quando ci sono stati crack Ciri e Parmalat, diciamo che le autorità di vigilanza italiane hanno chiesto appunto alle società, esatto, di essere molto precise nei prospetti informativi. Ecco, questo genere di comparazione, lo voglio annunciare agli ascoltatori di Salvadanaio, diventerà un cardine del nuovo Plus24, perché da sabato prossimo, 1° dicembre, Plus24 uscirà in edicola con una formula che conserverà i suoi pilastri tradizionali, ma con una formula rivisitata, con nuove sezioni, nuovi contenuti, un restyling grafico e anche con una comparazione settimanale di un bond che verrà esaminato per andare a vedere a livello di emissioni recenti o di emissioni della settimana, seconda che ci siano o meno, quali sono le opportunità, i rischi e la comparazione con i titoli di Stato. Siamo qua pronti per darvi il rating al nuovo Plus24, grazie noi mille, di Salvadanaio, e naturalmente anche tutti i nostri ascoltatori e i vostri lettori. Paolo Federici ci racconta un po' come è cambiato dal vostro punto di vista l'approccio all'investimento da parte dei vostri clienti. Quando si proteggevano nella massima misura possibile, che tipo di fondo di investimento sottoscrivevano, e adesso c'è questo graduale riaffacciamento al rischio secondo appunto il vostro punto di vista? Allora, la risposta è ad entrambe le domande sì, nel senso che c'è stato effettivamente un cambiamento nel modo di investire che abbiamo visto direttamente nei flussi, nelle scelte dei clienti. Allora, il primo cambiamento ha avuto a che fare con il modo di proteggersi. Per molti negli anni scorsi l'unico modo di proteggersi era quello di tenere tutto in liquidità, cioè di essere via, sostanzialmente dai mercati. Sostanzialmente questo non è stato questa volta l'unico modo, ed è una buona notizia perché i clienti hanno capito che la volatilità, cioè queste grandi grandi oscillazioni dei mercati sono qui per restare. Avrete letto, gli ascoltatori avranno letto quanta liquidità ad esempio la Fed sta immettendo sui mercati. La banca centrale americana. Esattamente. Sì. Quindi questa è una situazione molto come dire, volatile, perché evidentemente c'è tanta liquidità, diversamente per esempio dalle crisi precedenti, sui mercati, che effettivamente da qualche parte deve andare. Quindi in questo senso si sono rivolti a prodotti che avevano per loro natura capacità di stabilizzare la volatilità, magari delegando a un gestore il fatto di scegliere una volta un po' più di yield, magari quindi di titoli di alto rendimento, una volta un pochino più di governativi, magari quelli un pochino più in buone acque e così via, e poi però sperare comunque di ottenere un rendimento interessante, che dalla liquidità il più delle volte non si ottiene, e mi verrebbe da dire che quando si ottiene un rendimento interessante dalla liquidità c'è forse anche da preoccuparsi, perché vuol dire che come dire, c'è una ragione per cui viene offerto quel rendimento. Quindi in questo senso c'è stata l'affacciarsi a prodotti che facessero cose un po' diverse da prima. Dall'altra parte c'è stata una generale contentezza per un anno che invece finanziariamente è stato comunque molto buono, cioè se da un punto di vista i risparmiatori vedono il loro reddito da lavoro dipendente, magari anche quello dell'impresa con cui possono avere a che fare, sotto pressione, dall'altra parte gli investimenti sia azionari che obbligazionari sono andati comunque bene, e la sfida adesso è cosa fare per l'anno prossimo alla fine, perché i tassi stanno scendendo e questa è una buona notizia, perché in molti casi corrisponde a una ritrovata via giusta di paesi o di aziende. Dall'altra parte però pongono il problema di non poter andare per le solite vie facili, no? Si parlava prima per esempio dell'immobiliare, che oggi solo per un italiano su tre è rimasta un'alternativa prevalente. I risk free credo che anche non esperti avranno capito che probabilmente non esiste più, e i tassi alti probabilmente saranno difficili da trovare. Nicola, volevi aggiungere qualcosa? Sì, volevo aggiungere che noi abbiamo condotto anche un'analisi, diciamo, delle variabili macroeconomiche che influenzano anche questo genere di emissioni obbligazionarie corporate, e abbiamo individuato due variabili, soprattutto l'andamento del prodotto interno lordo, quindi la sostenibilità delle economie e delle aziende che sono radicate in quelle economie, di una crescita di lungo periodo, e soprattutto i tassi di interesse. Ora, uno dei temi che abbiamo cercato anche di evidenziare all'interno di questa copertina è la grande quantità di strutture che riguardano i corporate bond, perché non tutti sono lineari e semplici. Ne abbiamo identificati una dozzina. All'interno di queste, tra l'altro, abbiamo analizzato, come previsto dal decreto sviluppo, la nuova categoria dei mini bond che potranno essere offerti anche da alcune categorie di risparmiatori. E dobbiamo dire anche noi che ci sono dei problemi, nel senso che alcune categorie di bond, di corporate bond, anche a yield, hanno all'interno delle componenti derivate. Come hanno delle componenti derivate, ad esempio, alcuni ETF obbligazionari che investono anche sull'obbligazionario ad alto rendimento, per cui ci sono indicazioni anche sugli ETF da andare a selezionare. Noi ad esempio continuiamo a ripeterlo sempre, e non soltanto per gli obbligazionari, preferiamo sempre gli ETF a replica fisica, cioè quelli che investono direttamente nei titoli, non a quelli a replica sintetica. Benissimo, allora magari questo sarà anche l'occasione per ritornare su questo argomento prossimamente. È un tema un po' complicato, anche perché gli ETF da prodotti veramente molto semplici, quali erano all'inizio, quando una decina d'anni fa, hanno fatto il decennale proprio poco tempo fa con una celebrazione in Borsa Italiana, erano veramente molto banali, una replica identica rispetto agli indici sottostanti, adesso anch'essi sono diventati invece dei prodotti di investimento un po' complessi. Prima di sentire Claudio da Torino e Alessandro dalla provincia di Monza e Brianza, vi chiedo un minutino di pazienza perché sentiamo cosa succede sulle strade italiane. Salva Danaio. Rating AAA ai tortelli alla zucca che sta cucinando Benedetta Parodi, che sta facendo sentire male me, Nicola Borzi. Devo spegnere assolutamente questo monitor qui a fianco, una tragedia. Torniamo ai nostri investimenti, alla prudenza dei risparmiatori italiani, che sta un pochino modificandosi perché qualcuno sta cercando sul mercato occasioni di investimento un po' più coraggiose, un po' più aggressive, chiaramente con l'obiettivo di ottenere rendimenti un pochino più alti. Sentiamo cosa ci racconta Claudio da Torino. Claudio, buongiorno. Buongiorno, io sono un promotore finanziario, sì. E sinceramente con la mia clientela sono 2 anni che abbiamo aumentato il rischio, soprattutto sui settori corporate e a yield, abbandonando o comunque lasciando da parte il classico titolo di Stato. Ma quello che io soprattutto ho notato è che nella media del risparmiatore italiano c'è ancora la necessità di acquistare un tasso. Cioè, il nostro risparmiatore medio compra il 3, compra il 4, compra il 5, il 7%, non preoccupandosi del rischio del sottostante, ma soprattutto non preoccupandosi se il suo intermediario è in grado di gestire questo rischio e di farglielo misurare. Ma questo capita allora, anche tra i suoi clienti, o lei in qualche maniera cerca di arginare questa manifestazione di volontà? Questo io lo noto sulla clientela nuova che contatto e che acquisisco, perché finalmente capiscono che specialmente sul classico istituto di credito che gli ha farcito il portafoglio di obbligazioni del medesimo, forse stanno iniziando a rischiare qualcosa, che la diversificazione è necessaria. Però vedo ancora della serie ma lei quanto mi dà? No, io quanto la faccio rischiare? Il messaggio è questo, se il risparmiatore lo capisce, come ha capito che finalmente l'immobile dovrà crollare, non sarà più un investimento nei prossimi 15 anni, forse inizierà anche a capire che il proprio intermediario non dovrà più essere la banca, ma il professionista. Va bene, Claudio, non condivido la sua analisi sull'immobiliare. Io sono sicura che andremo verso una condizione di assestamento dei prezzi e non un tracollo, non siamo in una condizione di bolla. Detto questo, quello che stanno facendo le famiglie italiane sull'immobile lo sappiamo, non per scelta propria, ma per scelta delle banche che non erogano i mutui, perché io credo che l'italiano continuerebbe ad investire nel mattone, perché comunque la sicurezza la cerca continuamente. Detto questo, Nicola, la riflessione di Claudio? Detto questo, la riflessione di Claudio mi sembra molto interessante, con alcune accortezze. La prima, come testimoniano sempre le lettere che arrivano alla redazione di Plus 24, è che ci sono gli estremi. Abbiamo una lettera che uscirà domani di due risparmiatori che hanno investito tutti i loro beni in un unico prodotto obbligazionario della banca con cui hanno un rapporto. E dall'altro lato abbiamo invece un risparmiatore che ha investito i propri risparmi in 33 diversi strumenti bancari e creditizi. Quindi c'è chi non conosce assolutamente il concetto di diversificazione e c'è chi invece la applica a livello parossistico, riducendo probabilmente il rischio, ma sobbarcandosi una quantità di costi, di oneri, certo, e anche di attenzione necessaria a seguire un portafoglio così costruito, eccessiva. Paolo Federici vuole rafforzare questi concetti, perché anche lì stressare la diversificazione non è che sia sempre la scelta giusta. Sicuramente, come dire, bisogna trovare, come in tutte le cose, un buon equilibrio, ma soprattutto bisogna trovare uno strumento intelligente per raggiungere quell'equilibrio. Sono d'accordissimo con quello che è stato appena detto. Avere un solo titolo non è certamente la cosa da fare se si vuole stare tranquilli, quale che sia il titolo. Avere 30 titoli probabilmente è altrettanto sbagliato. Per questo esistono da sempre i fondi comuni, ma anche perché spesso questi titoli hanno delle pezzature minime, ci sono degli importi minimi da investire. Quindi se un risparmiatore normale si trova anche solo 5.000 euro non riuscirà mai a comprare 33 titoli, quindi evidentemente la diversificazione deve essere raggiunta con una qualche forma di efficacia. Riprendendo un pochino la domanda di prima, cioè su che cosa stiamo vedendo i movimenti, effettivamente noi vediamo che gli italiani hanno capito che se il reddito da lavoro è un po' sotto pressione, quello delle imprese per chi le ha beato lui anche, e rimane un portafoglio che fino a oggi non era fatto per costruire reddito, beh, forse quella è una soluzione, anche perché non ci dimentichiamo che i capital gain, cioè il reddito distribuito, la crescita distribuita, sono tassati al 20%, che è molto meno di quanto viene tassato con la rimodulazione della tassazione sul risparmio. Esatto, quindi è comunque molto meno della marginalità, del reddito marginale di molti di noi. Quindi in questo senso c'è la possibilità di fare un bel risparmio fiscale e di lavorare estraendo reddito da quelli che sono i propri risparmi, tanti o pochi che siano, anche con l'obiettivo di mantenere inalterato, diciamocelo sinceramente, un certo tipo di vita, perché qui non stiamo parlando di arricchirsi, ma stiamo parlando di, per esempio, non essere divorati dall'inflazione. Infatti avere delle cedole che, come dire, danno un po' di fiato nel corso dell'anno. Guarda Nicola, sentiamo Alessandro, poi ti lascio concludere perché la nostra trasmissione sta terminando. Alessandro, buongiorno. Sì, buongiorno, sono Alessandro. In pratica sono un promotore anch'io, quindi mi aggancio un attimino a quello che ha detto il suo collega prima, sì. Certo, e volevo solo, faccio un aggancio anche al fatto delle cedole, nel senso che spesso secondo me il risparmiatore, vedo io tra i miei clienti, ha difficoltà, se compra il tasso, giusto l'obbligazione bancaria, eccetera, perché ha difficoltà di capire l'effettivo rendimento totale, no? Spesso i fondi comuni non staccano delle cedole, quindi non riesce a comprendere bene quello che sia il rendimento effettivo. Ultimamente io vedo che tra i clienti anche posizionarsi un po' su strumenti come gli AID, piuttosto sempre fatti nei fondi comuni, quindi con una certa diversificazione, ho visto che i clienti sono molto più tranquilli quando sanno di ricevere poi effettivamente le cedole da questo tipo di strumento, accettano un po' un orizzonte un po' più di medio, di lungo periodo. Ecco, questa è un'esperienza. esperienza che porto, perché vedo che comunque il fatto di desiderare di spalmare un po' i risparmi in giro un po' tutto, per tutto il mondo, certo, diversificare in maniera molto forte, è piaciuto molto e ha portato oggettivamente a risultati concreti. Alessandro, grazie e buon lavoro. Naturalmente, Nicola, andiamo verso la chiusura. Ultimo messaggio finale da dare ai nostri ascoltatori sul tema affrontato questa mattina. È fondamentale comprendere lo strumento al quale ci si rivolge, quindi capirne la struttura. È fondamentale verificare che lo strumento sia in linea con la propria profilatura di rischio. La diversificazione è un must, però deve essere realizzata in maniera intelligente senza spezzettare troppo. Su alcuni strumenti, come ad esempio i titoli di Stato italiani indicizzati all'inflazione, che ultimamente sono andati per la maggiore, bisogna comprendere bene le tecnicalità dello strumento. Mi riallego sempre alle lettere che arrivano plus. Molti acquistano ad esempio BTP indicizzati all'inflazione, ma non hanno un'idea di che cosa sia il coefficiente di indicizzazione. Per cui sono convinti di acquistarne una quantità, ma senza considerare coefficiente ne trovano un'altra e poi si trovano spiazzati. Certo, comunque prodotti da conoscere fino in fondo. Peraltro non abbiamo avuto il tempo, ma mi sarebbe piaciuto affrontare le motivazioni per cui l'Italia non è molto emittente in termini di emissioni obbligazionarie. Proprio in questo periodo c'è anche l'emissione per esempio di Atlantia che ha avuto un successo tale che la società ha dovuto persino alzare il target offerto. Magari ne parleremo un'altra volta. Grazie a Nicola Borzi, a Paolo Federici, Gianmarco Ferronato in regia, Marco Lombardo per la estenuante collaborazione in redazione e la sopportazione della sottoscritta. Grazie a tutti, ci risentiamo la prossima settimana, buon weekend.